Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi ho una proposta da farvi. Se provassimo tutti assieme a diventare più ottimisti, a guardare al futuro non per quello di pesante e difficile che ha da riservarci, ma per ciò che di inaspettato e positivo potrebbe riservarci. So bene che il rientro dalle vacanze è il momento in cui il nostro sentire emotivo va un po' in tilt, c'è addirittura chi parla di sindrome da rientro, ma io oggi voglio provare a individuare insieme a voi un modo per diventare costruttivi, progettuali nei mesi che ci troviamo di fronte. Insomma, un mini corso accelerato per imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno e per vincere la tentazione di considerarlo invece sempre mezzo vuoto. Aiuta sempre, credo, non solo al rientro. In studio e in linea con me ho degli esperti che diventeranno i nostri allenatori per ripartire bene. Hanno meno di 60 minuti di tempo per assolvere al loro compito. Voi metteteli alla prova e fateci sapere se i loro consigli vi sembrano efficaci o almeno stuzzicano la vostra voglia di seguirli e di mettervi in gioco. Potete farlo come sempre mandando una mail a Essere Benessere oppure chiamando il nostro numero verde o ancora lasciando un vostro commento su Facebook. È tempo quindi di salutare il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e docente di neurologia all'Università La Sapienza. Professore, buongiorno e bentornato. Eccomi qua, bentrovata e saluti a tutti. Lei ci spiegherà come il nostro cervello si attrezza o potrebbe organizzarsi per affrontare al meglio i passaggi critici. Non è solo un problema di cuore inteso come emozioni, ma anche di chimica. Di chimica direi, e di che chimica? Quello che facciamo se siamo ottimisti è, in una frase, indossare un bel ricordo. Pensiamo a una donna che deve andare a una cena e per essere, figurandoci un atteggiamento ottimistico, la donna pesca un suo abito del passato, se lo mette, si guarda allo specchio e si immagina nel futuro. Esattamente questo è il ragionamento ottimistico: pescare una situazione positiva del passato, vederla in questo momento con gli occhi del futuro. È un trucco non male. In studio con me Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e ricercatore presso l'Università di Milano, nonché papà di Questa Casa Non È Un Albergo. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, tu ci aiuterai a inquadrare bene la situazione, a non fasciarci la testa con inutili parole, a non vederla più brutta di quello che è. Insomma, ci insegnerai a vedere quel famoso bicchiere mezzo pieno. E perché dico io a limitarci al bicchiere? Direi la bottiglia, no? Perché la ripresa può anche essere il momento di pensare più in grande, che non significa strafare, ma avere un quadro obiettivo della situazione, senza metterci dei paletti. Credo proprio che quello che dici tu usando l'immagine del bicchiere e della bottiglia sia molto giusto. Il bicchiere è oggettivamente pieno a metà. Da quando nasciamo poi noi ci abituiamo a vedere quella metà come un mezzo pieno o un mezzo vuoto, cioè ci alleniamo sempre a fare gli stessi pensieri, a rientrare sugli stessi sentieri. Quindi magari per chi è già sul sentiero giusto manteniamo la strada maestra, per chi è sul sentiero sbagliato state con noi che oggi vi portiamo invece nella giusta direzione. 800 24 00 24. Allora partiamo da un dato: ricominciare è difficile per tutti. Allora analizziamo i punti da presidiare nel passaggio da tempo di vacanza a tempo ordinario. Io partirei dal lavoro e dallo studio. Professor Barbanti, chi torna al lavoro ha spesso la sensazione di sentirsi non più adeguato. Ma allora come mai, mi chiedo io puntualmente, tutte le poche settimane di vacanza producono un effetto di questo tipo? È come se il cervello, abituato ad altri stimoli, non riuscisse poi a trovare il giusto ritmo. È vero, c'è da dire che questa sensazione sgradevole di impatto con il ritmo della vita lavorativa è la misura di quanto la nostra vita quotidiana si sia allontanata dal nostro vero ritmo, che, diciamolo chiaramente, è quello di quando siamo piccoli, un ritmo molto lento. Il motivo per il quale si impatta così pesantemente con la ripresa è semplicemente il fatto che noi torniamo a indossare l'orologio, oppure se lo indossiamo d'estate torniamo a guardarlo. Guardare l'orologio vuol dire far scandire la giornata da un ritmo che non è quello cerebrale, non è quello biologico. Molte volte nessuno può pensare che sia normale lavorare magari 12 ore, nel frattempo farsi belli, nel frattempo avere pensiero per una madre anziana o per i figli che vanno a scuola. In sostanza, durante il periodo di relax, in noi tornano a parlare le aree del piacere, aree che hanno nomi strani, l'area del tegmento per esempio, è un piacere primordiale, forte, non psicologico, il piacere che abbiamo nel mangiare un cibo particolare, nel non vestirci, nell'andare in giro in costume o in relativo déshabillé nei posti di vacanza. E sostanzialmente questo è quello per il quale noi siamo stati programmati, è quello per il quale abbiamo vissuto buona parte della nostra gioventù e dal quale ci allontaniamo. È quindi evidente che il minimo che possiamo aspettarci, spostandoci da un orologio biologico a un orologio invece magari anche di marca che indossiamo al polso sinistro, è questo il minimo che possiamo andare a trovare. E anche con lo studio, Alberto, si ripresenta pressappoco lo stesso problema: mancanza di concentrazione, difficoltà a memorizzare e per qualche bambino, qualche ragazza, anche una specie di sindrome ansiosa del tipo sento che non ce la farò quest'anno. Sì, tocchi due aspetti fondamentali. Il primo è la mancanza di allenamento, è proprio come un atleta che magari ha fatto un mese di vacanza, si è riposato, non è più entrato nei consueti esercizi con cui stava al massimo della prestazione. Rientrare in un compito che richiede attenzione, concentrazione e prestazione necessita di gradualità e quindi non possiamo essere al massimo, ma questo a scuola lo sanno bene. Il secondo aspetto che invece tocchi tu, cioè l'ansia, è una parte che ha a che fare invece con le emozioni e probabilmente qualche genitore sta proprio verificando in casa, in famiglia, che soprattutto quei bambini che fanno il salto dalla materna alle elementari oppure dalle elementari alle medie o devono entrare alle superiori, in questo momento non hanno tanto un problema di non riesco a concentrarmi, ma hanno un altro problema, cioè hanno un'ansia che fa dire a loro ce la farò, sarò in grado, ho paura. Questi sono aspetti che di nuovo possiamo imparare a tenere sotto controllo, basta prepararsi. Basta chiedere anche all'800 24 00 24 e sul fronte delle relazioni. La coppia dopo le vacanze sta meglio o sta peggio? Quali sfide si trovano ad affrontare i partner? Per alcuni le vacanze sono state una croce perché la quotidianità gomito a gomito ad alcuni va stretta, per altri un vero tocca sana. In qualsiasi caso, adesso si cambia nuovamente registro. Professor Barbanti. Il motivo è legato al fatto che c'è un grande cuore all'interno del nostro cervello, ci sono enormi aree affettive. C'è solo un problema: questo cuore parla piano, si fa sovrastare dal linguaggio invece del cervello razionale, un pochino cinico, e appare un po' offuscato. Ma nei periodi di vacanza questo cervello più primordiale, più emozionale, parla chiaramente. Vi è mai capitato di vedere il vostro capufficio in vacanza vicino a voi e dire ma non è possibile che una persona così dura e a volte così arcigna sia così affabile col suo bambino o col mio bambino? Bene, il riconoscere di avere un cuore molte volte capita nel momento del pensionamento e in questo caso si trova un cuore che è rimasto un po' inaridito. Chiaramente parliamo di un cuore emozionale, cioè di quella parte del nostro cervello fondamentale che dà il colorito emotivo, che dà il motivo di vivere alla nostra giornata. Leggo un messaggio di Angela: se quest'anno i miei figli mi fanno vivere lo stesso copione dell'anno passato, scappo, non ho la forza. Alberto, è vero, per molti genitori la ripresa significa anche ritornare a fare l'acrobata, incastrare in un puzzle mille impegni. E spaventa, eh? Non vieni a dirlo a me, che so già che dalla prossima settimana tutta la nostra vita sarà un continuo slalom tra entrate e uscite da scuola, eccetera. Però di nuovo possiamo usare uno schema, organizzarci, gestirci proprio la vita come se fossimo una piccola azienda, e più ci programmiamo e ci organizziamo, più questa sensazione di non farcela diminuisce e scompare. Ma è tempo di salutare l'ospite di oggi, che la sindrome da rientro se l'ha avuta, l'ha superata in bellezza. E non uso questa parola a caso, perché da Salso Maggiore, regno della bellezza, è con noi Milly Carlucci. Milly, ciao! Buongiorno, buongiorno! Oggi è proprio una giornata da rientro al lavoro, no? Di quelle piovose che proprio ti dici, primo giorno di scuola, rientro al lavoro, piove, brutto tempo, mamma mia come mi sento depressa. Senti Milly, tra l'altro tu stai correndo la conferenza stampa e quindi sì, puoi darci anche qualche anticipazione, così la sappiamo prima degli altri, dai. Sì, intanto la cosa che andiamo a annunciare sono naturalmente l'arrivo di Sharon Stone per incoronare Miss Italia, ed è un bel modo di essere incoronata da una donna bellissima, di successo ma anche coraggiosa, che ha saputo superare una grave malattia che non ha lasciato nessuna traccia in lei. Annunceremo Kylie Minogue, protagonista della giornata della moda, annunceremo l'arrivo di Ron Moss e Kelly Lang per la giornata del cinema, e più tantissimi personaggi come Flavio Insinna, Lorenzo Flaherty, Flavio Montrucchio, Roberto Farnesi, Massimo Ranieri. Insomma, sarà veramente, che squadra! Le nostre Miss saranno coronate circondate da un gruppo di personaggi di grandissimo livello, proprio per festeggiare in modo come se fossero un po' i padrini e le madrini, le fate madrine e i padrini di una nascita. Speriamo di una nascita, di una carriera nel cinema o nella moda o nella televisione per qualcuna di queste ragazze. Senti Milly, tu ti sei concesso una bravissima vacanza, proprio giusto per ricaricare le pile e tuffarti nuovamente in questa nuova avventura, e che avventura, che immagino ti costringa a ritmi di lavoro molto serrati, ma credo che, come hai aperto dicendo, proprio questa è una giornata di lavoro piovosa con mille impegni che incalzano, anche per te la ripresa sarà un momento abbastanza complesso. Come la affronti? Hai una ricetta? Ma guarda, intanto la cosa più importante quando rientri è non vedere come una specie di punizione, perché tanto, voglio dire, devi rientrare, devi lavorare, quindi anche sul al giorno d'oggi, devo dire che è una fortuna, no? Rientrare e trovare il lavoro, siamo miracolati. È una cosa importante, e poi in particolare per me nel mio lavoro il fatto di avere sempre un goal, una meta definita e importante ti elettrizza, cioè tu rientri sapendo che devi farcela, cioè che devi arrivare in fondo col massimo del risultato, perché ne va veramente della tua carriera. Quindi sei veramente elettrizzato da una grande scarica di adrenalina, e veramente tutti noi che facciamo questo mestiere, io in particolare questo lavoro, lo viviamo come un grande privilegio e una grande opportunità. Non è da tutti poter lavorare nello spettacolo, succede raramente di poi trovare, inanellare successi, ti ci devi impegnare al massimo, quindi è come quando ci si allena, l'inizio del periodo di allenamento per arrivare in gara non è un peso, è la cosa che tu devi fare, che fai con gioia, perché ti può portare al successo, ti deve portare al successo. Senti Milly, Alberto Pellai, che è psicoterapeuta, per te ha preparato una sorta di test per valutare qual è lo stile che tu adotti nell'affrontare le sfide. Sono proprio quattro brevissime domande, abbiamo il tempo? Vai! Sì, vai! Allora, di fronte ad una difficoltà inaspettata, sei portata a pensare, capitano sempre tutte a me, oppure quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare? I duri cominciano a giocare, perché le difficoltà inaspettate sono non quotidiane, sono minuto per minuto in questo lavoro, e devi anche essere capace di risolvere quelle che ti capitano proprio quando stai per entrare in onda e sembra che tutto sia perduto. Quindi o sei capace di farti una scorta e reagire con forza e trasformarle in opportunità, o è meglio non fare questo mestiere. Se qualcuno ti propone una cosa che non hai mai fatto prima, la prima cosa che pensi è chissà quali rischi nasconde, oppure chissà quali opportunità mi potrà dare? No, chiaramente penso subito alle opportunità, anche perché questa è una professione nella quale devi continuamente svoltare l'angolo e trovare una strada nuova, non puoi, se la pensi in maniera conservatrice sei finito. Finito. Quando sei in crisi, cerchi qualcuno con cui confidarti o da cui farti aiutare, oppure ti impunti e dici no, devo farcela da sola, ce la faccio? Allora, il fatto di parlarne con qualcuno, per esempio una persona con la quale io parlo ovviamente a casa è mio marito, no? La spalla su cui piangere è fondamentale, però poi in realtà devi farcela da solo, perché in fondo tu puoi parlare, dire, fare, ma la decisione ultima e importante su come devi agire la devi prendere tu, perché poi la vivi sulla tua pelle. Quindi diciamo ti sfoghi, ma poi raccogli le tue i tuoi straccetti e vai avanti. E poi vai avanti. Quando qualcosa va male sul lavoro, alzi la voce, dice a quelli intorno a te di darsi da fare per rimediare la situazione in fretta, ti fermi invece con calma, insieme alle persone che hai intorno, cerchi di capire cosa si può fare per venirne fuori. No, sicuramente ci si ferma. Almeno questo è il mio modo di lavorare. Quando c'è un problema, una difficoltà, bisogna non lasciarsi travolgere dall'emotività, dalla rabbia che ti prende perché qualcosa è andato storto, che magari era facile mandare per dritto, e invece bisogna fermarsi e ragionare e a bocce ferme, mente sgombra, riflettere su come non commettere altri errori. Allora, adesso la parola al nostro Alberto Pellai. Professor Pellai, allora, mi sembra... Ma devo dire che la nostra Milly Carlucci, oltre che essere una leader nata, è una compagna di lavoro che tutti vorrebbero avere. Quattro aspetti con cui ha proprio profilato bene la sua capacità di affrontare le sfide. Uno è la resilienza. Lei ha proprio detto farsi una scorza di fronte ad una difficoltà, e questa è la capacità che hanno le persone che sanno attraversare una crisi. Cioè, invece che rimanere passive e dire capitano tutte a me, affrontano la difficoltà e cercano una soluzione. È ottimista e quindi usa proprio il pensiero positivo, e quindi è proprio una persona che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno, e questa è una fortuna, probabilmente un po' temperamentale, ma forse che ha costruito anche nelle relazioni con la sua famiglia d'origine. Inoltre ha questo misto, cioè è capace di sentirsi vulnerabile, quindi di andare da qualcuno, non ha paura a farsi vedere fragile o in difficoltà, ma poi sa cercare dentro di sé gli strumenti per andare avanti, e quindi non si affida soltanto all'aiuto degli altri, ma mescola l'aiuto degli altri con l'aiuto che viene da se stessa. E l'ultimo aspetto, direi quello fondamentale, di fronte a una difficoltà o quando è stress, è stressata, invece di usare un sistema motivazionale che si chiama agonistico, cioè fare la guerra contro il mondo e dire colpa vostra, lei si mette lì e fa un gioco di squadra, cioè dice meglio cooperare, aiutiamoci tutti. Milly, non ho parole. Non ne hai sbagliato una. Devo dirti una cosa, questo modo di pensare me lo ha molto inculcato lo sport che ho fatto per tanti anni, sì. E mi ha aiutato a trovare le strategie, perché lo sportivo deve essere capace di assorbire il colpo e rimbalzare dalla sconfitta rimettendo tutto in gioco e anzi ripartendo verso nuove mete. È un tipo di mentalità che io consiglio, perché ti aiuta nella vita, davvero. Allora, noi ti vediamo in diretta. Dai, dal Salsa Maggiore, non mancheremo. Un abbraccio. Dai, ci vediamo sabato allora dal Salsa Maggiore, 3 giorni di Miss Italia. Grazie a Milly Carlucci, in bocca al lupo. Un bacio, crepi il lupo, grazie. Riprendiamo, e noi oggi parliamo proprio di ripresa. Cerchiamo di farlo con ottimismo, con grinta. Abbiamo detto vediamo il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io ho detto la bottiglia. Alcuni ascoltatori mi scrivono non è questione di bicchiere, addirittura la vita è un oceano. Voglio però dirvi che in chiusura parleremo con il professor Grazzini di una notizia di cronaca che sta così su tutti i giornali di oggi. L'errore trasfusionale avvenuto a Torino, all'ospedale delle Molinette, che è costato la vita alla paziente. Ma io direi di ritornare al tema del giorno, e prima di approfondire il tema voglio lanciarvi il nostro quiz. La domanda di oggi è: secondo uno studio pubblicato da Nature, è stata identificata l'area del cervello responsabile dell'ottimismo, in grado di farci pensare positivo. Si trova nella corteccia rostrale anteriore cingolata, mamma mia che parole, e nell'amigdala, questa la conosciamo meglio. In quale città statunitense ha lavorato l'equipe della dottoressa Phelps, responsabile di questa importante scoperta? Mandate la vostra risposta via mail a essere benessere@radio24.it. Il primo di voi che invierà quella giusta riceverà a casa il libro di oggi. E sì, cari amici, perché grazie alla collaborazione con IBS, il primo ascoltatore che invierà la mail a essere benessere@radio24.it con la risposta giusta al nostro quiz riceverà a casa il libro di oggi dal titolo Imparare l'ottimismo. In collaborazione con IBS.it. Professor Barbanti, riprendo proprio la domanda del nostro quiz. Come il cervello e le sue diverse strutture sono implicate nel renderci ottimisti o al contrario pessimisti? E quali sono i meccanismi neurofisiologici alla base di queste differenze? Sì, i ricercatori che lei ha citato hanno fotografato sostanzialmente che durante un ragionamento ottimistico si accendono sia le aree delle emozioni, e cioè l'amigdala, sia quell'area impronunciabile che noi sintetizziamo come cingolo, che è l'area della memoria autobiografica. Toh, guarda che strano, penso al futuro guardando al passato. Quindi, dicevamo all'inizio della trasmissione, essere ottimisti vuol dire sapere proiettare nel futuro un ricordo positivo del passato. Quindi servono due cose: un proiettore, quindi la capacità, e questa forse è un po' innata, ma serve una seconda cosa: avere esperienze positive nel passato. A questo punto l'ascoltatore potrebbe dire: beh, il gioco è fatto, chi è fortunato è fortunato e chi no, no. Non è assolutamente così. Avere esperienze positive del passato non vuol dire aver fatto cose straordinarie, vuol dire, Orazio lo diceva col carpe diem, anche accontentarsi di poco. Le popolazioni più ottimistiche sono state le popolazioni molte volte uscite fuori da guerre e in cui la soddisfazione veniva ottenuta a basso prezzo, soddisfacendo bisogni essenziali, un bisogno per esempio di felicità non individuale come la viviamo noi, ma felicità sociale. Quindi un consiglio agli ascoltatori: se la capacità di proiettare nel futuro cose positive del passato dipendono dai nostri geni, forse cerchiamo di abbassare la nostra soglia del piacere, cerchiamo di ottenere nella giornata piccole gratificazioni, e quelle saranno proprio quei ricordi positivi che poi di volta in volta, quando dovremo pensare al futuro, andremo a pescare, a indossare come un abito e dire: toh, ci sto bene, ce la farò anche questa volta. Arrivano i vostri messaggi, devo dire i vostri contributi, le vostre ricette, l'arrivano via sms 349-238-6666. Come vi ho anticipato, da lunedì potete anche mandarcele su Facebook, Essere Benessere Radio 24, e così potremo attivare delle conversazioni. Ad esempio Nadia da Venezia mi scrive: è bello avere ostacoli e sfide, ti tengono allenati a vedere positivo. La mia ricetta è non stare sola, ma cercare compagni per fare squadra, in famiglia e in società. Carlo da Reggio Emilia, vediamo se ha una richiesta o invece un suggerimento. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, come state? Spero bene. Bene, bene, bene, grazie. Ecco, perfetto, questa è una domanda alla quale molte persone invece dicono: ah, così, potrebbe andare meglio, sto così così, eccetera eccetera. Cioè, questo per dire cosa? Siamo noi i primi a volte che ci costringiamo poi a dover recitare un ruolo anche se invece va tutto bene. Io sinceramente sono quello dell'oceano. Io la mia vita non la voglio limitare a un bicchiere. Per me è un oceano profondo e molto largo, senso di libertà, di poter muovermi. Beh, se cala o si alza di un metro, sinceramente non me ne accorgo. Poi mi sono dato una regolina molto semplice: sì, mai intercalare con no oppure il problema è, dopodiché partire col mio commento o con la mia affermazione. Quante volte vi sarà capitato, per esempio, di fare la domanda: cosa ci vuole dire? E in genere l'ascoltatore o l'interlocutore dice: ma niente, dopodiché parte per un'ora. Questo è il posto di evitarlo. Questo qui proprio sono i tre intercalari che secondo me dopo già predispongono male l'interlocutore eventualmente, e poi comunque costringono me a recitare, ecco, il ruolo. Mi è piaciuta, Carlo, no, questa sua così riflessione: ci costringono a così recitare una parte, va sempre tutto così, oppure alcuni dicono: hai una domanda di riserva. Carlo trattino sì. Alberto ci ha dato, perché sennò sembra un nome, almeno in Piemonte è ancora molto usato, ci ha dato dei suggerimenti molto utili, cioè cercare di evitare già delle situazioni, di stare lontano a degli schemi. Credo che Carlo abbia fatto poi proprio un passaggio in più, perché ci ha dato un consiglio molto pratico, ovvero: noi siamo in qualche modo padroni dei nostri schemi mentali e dei pensieri che utilizziamo, a volte in modo totalmente quasi è assurdo dire usiamo un pensiero in modo inconsapevole, ma ci sono proprio dei pensieri che ci abitano, siamo abituati a darli per pensati, per scontati, e ci spingono spesso verso il pessimismo oppure verso l'ottimismo. Allora, chi si trova in questo trend negativo è abitato proprio da pensieri che automaticamente lo portano a dire niente, no, il problema, però il problema è, ecco, avere la capacità di addomesticare questa tendenza innata significa proprio cominciare a produrre un cambiamento. Carlo nasce fortunato perché lui ha imparato da subito a fare la parte contraria, cioè a usare bene i propri pensieri positivi e a pensare in grande, l'oceano. Quindi Carlo ci regala un'indicazione, almeno per oggi evitiamo, proviamo a evitare la parola problema, a rispondere subito no, non va tanto bene, e a pensare un po' in grande, Carlo, all'oceano per l'appunto. Ma io salto anche a Padova perché c'è Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io mi sono riconosciuto molto negli interventi sia del professor Barbati che di Alberto Pellai e dell'ascoltatore precedente. In effetti sono reduce giusto domenica da 6 giorni di un seminario full immersion su come riprendere l'anno in maniera positiva. E veramente quello che ho sentito dire da voi è quello che ho sentito dire da chi teneva questo corso, che è basato su una tecnica che si chiama programmazione neurolinguistica. Sicuramente i vostri ospiti ne sanno qualcosa. E lì noi abbiamo passato dei giorni interi a provare fisiologie potenzianti, come focalizzarci solo su opportunità piuttosto che sulle situazioni depotenzianti che abbiamo, come farci sempre domande costruttive invece che negative. E addirittura, se posso dire, abbiamo passato una giornata intera a pianificare il prossimo anno perché sia il miglior anno di sempre, si definiva. Alberto, ci regali qualche cosa che quindi hai imparato a questo corso? Ci ha fatto una panoramica molto ricca, e poi mi fa piacere che conferma anche i nostri esperti hanno fatto un sunto praticamente di questo corso full immersion. Ma lei oggi, ad esempio, che cosa mette in pratica di quello che ha imparato in questo corso? Ma guardi, io provo sempre a trovare, diciamo, come diceva lei, la parte positiva di qualunque situazione. Cerco di non focalizzarmi, di non passare il mio tempo a dire di qualunque situazione cosa non andava, ma cosa può andare e cosa si può comunque migliorare. E poi caro Alberto, quello che mi tira su personalmente nei momenti un po' di crisi è che so che tutto scorre, no? Tutto si muove, tutto cambia, non c'è niente che è completamente definitivo e immobile. Grazie ad Alberto per essere stato con noi. E alla nostra squadra di esperti si aggiunge Marina Terragni, benvenuta. Buongiorno. Io ho letto, editorialista per il Corriere della Sera e Io Donna, io ho letto un articolo che per me è stato illuminante di Marina Terragni, dato che io me lo sono ritagliato e lo rileggo spesso, l'ho invitata perché voglio condividere i suoi suggerimenti con voi. È un buon inizio, autunno è tempo di cambiare, Marina, e lei dà una serie di spunti, alcuni mi sono piaciuti in modo particolare, ma quello che per me è stato illuminante è abbassare il fuoco in tutti i sensi. Sì, ma intanto posso dire che ho mal di testa oggi. Sì, no, ce l'ho, già. Nel senso che poi si parlava di maschere, ma anche la maschera del pensiero positivo io non la amo. Nel senso che la sofferenza esiste, il disagio esiste, rientriamo magari in città molto faticose dopo aver fatto l'esperienza dell'immersione nella natura, dei tempi rilassati, e quindi è naturale che è come mettersi un paio di scarpe strette. Esatto. E le scarpe strette fanno male. E infatti, quello che diceva, ecco, il professor Barbanti, si deve proprio cambiare. Insomma, voglio dire, si tratta un pochino di fare quel cala di Junco che insegna la saggezza siciliana, cioè quando il momento non è proprio propizio, abbassarsi e non prendere di petto le cose. Quando arriva il pensiero depressivo o la circostanza faticosa, perché arriva, arrivano entrambi, semplicemente accettare e lasciare passare. E poi tenere sempre conto che dal disagio e dalla sofferenza si impara. Ah, sì. Si impara a spostare delle cose della propria vita che non vanno, insomma, non è che la vita, come dire, la dobbiamo accettare così com'è, no? E sempre sorridenti e vederne se ci sono delle cose che possono essere cambiate, quindi accettiamo quello che può, non può essere cambiato, almeno per il momento, ma quello che può essere cambiato, cambiamolo. Primo. L'altra cosa che volevo dire è che adesso mi pare proprio oggi finisca Ramadan. Noi non abbiamo momenti rituali così, passaggi così che sono molto significativi, perché il sacro fa parte del simbolico umano. Però, per esempio, un nostro Ramadan potrebbe essere quello di liberarci dei pesi inutili. Sì. Io prendersi tre giorni delle proprie ferie per buttare all'aria la casa e buttare via un sacco di roba. Quindi non trascinarci il vecchio da questo punto di vista. Una volta a Capodanno si buttavano i piatti vecchi dalla finestra. Sì. Quindi questo che è diventato il Capodanno, perché purtroppo la nostra vita non è più organizzata sui ritmi della natura ma su quelli lavorativi, è un momento propizio per liberarsi. Ieri avrò buttato via 250 libri e un intero sacco di carta, liberarci dei pesi inutili e tornare all'essenziale, in qualche modo preparare la cuccia, preparare la tana per l'inverno. E questo vale anche per il corpo, prepararsi ad affrontare il disagio inevitabile della stagione meno tiepida e meno godereccia, per così dire. Marina, io ringrazio e saluto Marina Terragni, perché tra poco chiudiamo abbiamo pochi minuti proprio per commentare la notizia di oggi. Intanto la ringrazio davvero per essere stato con noi, faremo tesoro delle sue indicazioni e continueremo a leggerlo. Un saluto a Marina Terragni. Ciao. Grazie. Alberto, grazie, noi ci sentiamo, stiamo organizzando per Questa casa non è un albergo il professor Barbanti, spero di averlo ancora presto qui tra noi. Arrivederci. Grazie, buon rientro e buona continuazione. E in chiusura cambiamo argomento, perché c'è una notizia di cronaca riportata da tutti i giornali, il caso dell'errore trasfusionale che è costato la vita ad una paziente a Torino presso l'ospedale Molinette. Si tratta di mala sanità, di errore umano o di un rischio che, per quanto minimo, non può essere escluso quando abbiamo a che fare con questo tipo di procedure. In linea con noi il professor Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale del Sangue. Professore, benvenuto e buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Professore, ci dia una prima risposta. Si tratta, nel caso delle Molinette, molto presumibilmente di un errore individuale, perché si verifica in un ospedale dove appare evidente che sono in campo procedure standardizzate adeguate per la prevenzione del rischio clinico trasfusionale. Quindi presumibilmente si tratta di un caso in cui non sono state seguite procedure codificate. Ma come la trasfusione giusta arriva al paziente giusto, professore? Dunque, la trasfusione innanzitutto bisogna essere certi che la trasfusione sia richiesta appropriatamente, cioè che esistano le necessarie indicazioni cliniche, quindi va fatta solamente quando è veramente necessaria. Inoltre, il processo che porta alla trasfusione deve iniziare con una chiara e sicura identificazione del paziente al momento della raccolta dei campioni che servono per determinare la compatibilità immunologica tra paziente e donatore. Deve essere fatto, in tutti i casi in cui è possibile, al limite anche nei casi di urgenza, un doppio controllo del gruppo sanguigno per essere certi che il gruppo sanguigno del paziente sia quello che poi viene determinato. Deve essere praticata una rigorosa tracciabilità di tutte le operazioni per la compatibilità immunologica all'interno del servizio trasfusionale, e sempre all'interno del servizio trasfusionale deve essere praticato un rigoroso controllo al momento della consegna, quindi che si consegna l'unità o le unità di sangue per quel paziente, cioè per il paziente a cui sono state, per il quale sono state determinate le prove di compatibilità. A questo punto le sacche, le unità di sangue vanno nel reparto di cura, dove devono esistere, e questa la legge italiana lo prevede dal 1990, devono esistere procedure standardizzate per l'identificazione certa o univoca, si dice, no? Del paziente, e per l'abbinamento del paziente con le unità di sangue da trasfondere. È una precisa responsabilità del medico che dispone la trasfusione di verificare che esista una perfetta compatibilità di gruppo sanguigno fra il paziente e le unità che devono essere trasfuse. Naturalmente l'identificazione certa del paziente si deve fare, ove possibile, chiedendo al paziente di declinare le proprie generalità, cioè nome, cognome, data di nascita, o con strumenti alternativi laddove il paziente sia in condizioni cliniche da non poter rispondere. In ogni caso è bene che all'atto della trasfusione siano due operatori, di norma sono un infermiere e un medico che fanno tutte queste verifiche. Non è assolutamente detto che sia il medico quello che applica la trasfusione, è un atto infermieristico quello di applicare la trasfusione, ma è un atto medico la verifica della compatibilità biologica teorica fra paziente ricevente e il lavoro di squadra con l'infermiere per essere certi di non sbagliare il paziente, di non dare un sangue sbagliato al paziente. Professore, l'errore trasfusionale è costato la vita al paziente, ma il rischio è sempre così elevato o lo stato di salute della paziente era particolarmente critico? Ma dobbiamo dire questo, questi casi di trasfusioni errate fanno veramente molto scalpore ed è giusto che sia così perché non dovrebbero mai accadere. In Italia noi trasfondiamo circa 2,5 milioni di unità di globuli rossi all'anno e dai nostri dati, noi siamo il Centro Nazionale di Rilevazione anche degli errori in questo caso, oltre che il Ministero della Salute, nel 2009 noi abbiamo avuto 14 segnalazioni di questo tipo di errori, in solo due casi per fortuna l'evento si è verificato mortale, in 12 casi la sintomatologia inizialmente manifestata dal paziente ha messo in allerta gli operatori ed ha consentito di interrompere precocemente la trasfusione senza arrivare a danni di rilievo. Quest'anno noi abbiamo fino ad oggi, quindi siamo ad agosto, 3 segnalazioni, di cui questa è la terza. Sembrerebbe quindi che il grande livello di attenzione che da 20 anni esiste negli ospedali su questa problematica effettivamente dia dei risultati. Noi lavoriamo molto per sensibilizzare tutto il mondo, in particolare dei servizi trasfusionali, ma anche degli altri reparti, per cercare di tenere a molto alto il livello di attenzione su questo problema. Professor Grassini, io la saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Aspetta. Buona giornata. Buon lavoro. E per oggi è tutto, saluto anche voi, domani ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 11.